e fa tenere uno con il banco. Radio Onda Rossa, rientriamo in diretta. E allora, oggi 16 febbraio, siamo ormai da qualche giorno entrati nel vivo di questo calendario che si è preparato quest'anno, ma un po' come tutti gli anni, per ricordare Valerio Verbano a 31 anni dal suo assassinio, un anniversario come al solito speciale, perché quando ricordiamo questo compagno lo facciamo sempre con grande emozione e se vogliamo insomma con un sentimento duplice, contraddittorio, in parte di contentezza, perché poi insomma si fanno iniziative per tramandare i valori, gli ideali di questa figura di giovane compagno che certamente può essere presa da esempio, perché appunto giovanissimo ha dedicato la sua purtroppo breve vita a un impegno assiduo alla militanza politica, laddove insomma la militanza era certamente vissuta con gioia ed entusiasmo. A questo però sentimento così di contentezza nel fare delle iniziative attraverso le quali soprattutto le giovani generazioni possono conoscere la storia di Valerio Verbano, chiaramente ogni anno tutto ciò lo facciamo con la morte nel cuore, perché Valerio non c'è più e non possiamo insomma purtroppo confrontarci con lui, non possiamo discutere con lui. Quest'anno, dicevamo, le iniziative sono tante. Già l'anno scorso, insomma, grazie all'impegno anche di Carla Verbano, si è diciamo fatto tanto nella direzione di scrivere e lasciare anche qualcosa di importante, di scritto, dei libri per cercare di diciamo un po' eliminare la nebulosa che c'è attorno al caso Valerio Verbano, all'omicidio Valerio Verbano. Tanto impegno, lo sappiamo, ce lo mette proprio sua madre Carla. Il libro dell'anno scorso, Sia folgorante la fine, lo hanno letto in tanti, lo abbiamo letto in tanti. Quest'anno di libri insomma ne sono usciti due. Uno di questo verrà presentato domani pomeriggio al centro sociale Ex Snia in via Prenestina, il libro di Capoccetti Boccia. Insomma, ci sono stati vari spazi radiofonici in cui si è parlato della storia di Valerio Verbano, anche insomma dei nodi insoluti a cui rimanda anche tutta la questione di carattere giudiziario. L'iniziativa di domani, che è praticamente quella che vogliamo ricordare oggi e che presentiamo oggi, è composta quindi da diciamo più parti, cioè verrà presentato il libro soprattutto, ed è una cosa a cui immaginiamo i compagni che si sono prodigati nella costruzione di questa iniziativa tengano molto, e cioè la mostra dei manifesti che hanno accompagnato durante tutti questi 31 anni i vari 22 febbraio che si sono succeduti, manifesti che in un modo o nell'altro segnalano del rapporto immenso insomma che c'è e che si è intessuto tra la città di Roma, i compagni e le compagne, e questa figura di militante che così precocemente insomma ci ha abbandonato perché ucciso dai fascisti, perché un bravo compagno, perché un bravo militante, un antifascista che dei suoi valori e del suo impegno insomma non ne faceva soltanto discorsi a parole, ma come poi è successo, ci si giocava anche la vita. E dunque l'iniziativa di domani inizierà alle ore 19. Noi siamo qui con un compagno che ce ne parla, un compagno della SNIA che appunto ci parlerà di questa iniziativa. Buonasera, buongiorno a tutte e tutti. Volevamo presentare l'iniziativa di domani alle 17 al centro sociale SNIA, che iniziativa che consta di appunto del della presentazione del libro di Marco Capocetti Boccia, Valerio, su Valerio Verbano, e di questa mostra che abbiamo messo insieme. Allora, partiamo della mostra. La mostra, innanzitutto dal titolo. Il titolo della mostra, appunto, non un nome su una via, ma su tutte le vie, su tutte le piazze, proprio perché era il titolo, la presentazione del primo manifesto dedicato a Valerio. La mostra, appunto, come diceva Luciano, è formata dai 31 manifesti che nel corso del tempo sono stati dedicati dai compagni di Roma alla figura di Valerio. Appunto 31 manifesti, questa è la particolarità, proprio perché forse Verbano è stato l'unico compagno a cui compagni e compagne di Roma nel corso dei 31 anni hanno dedicato un manifesto e l'hanno voluto ricordare ogni anno. Ma non l'hanno voluto ricordare soltanto come ricordo a sé stante di un compagno antifascista, ma è sempre stato voluto attualizzare nel corso del tempo alla particolarità del momento. Infatti se verrete a vedere la mostra, se verrete a vedere i manifesti, ogni anno è stato voluto attualizzare al momento, ai fatti più salienti dell'anno in corso. Si passa dal 91 ricordando la guerra, i compagni che nel corso del tempo sono stati arrestati, le denunce e via dicendo. Noi quest'anno, soprattutto nel ricordare la SNIA, l'abbiamo voluto dedicare proprio perché Valerio non era soltanto un militante antifascista, ma era anche un giovane studente del liceo Archimede. L'abbiamo voluto dedicare agli studenti e alle studentesse, ai giovani ragazzi che il 14 dicembre del 2010 hanno invaso la città di Roma, e appunto, come diciamo nel volantino di convocazione della serata, hanno messo in discussione il sistema politico attuale. Certo, insomma, ora la storia di Valerio Verbano, insomma, gli ascoltatori più assidui di Radio Onda Rossa la conoscono bene, è una storia ampiamente nota. Insomma, noi oggi non ci dilunghiamo tanto su questo, anche perché, come ricordavamo prima, ci sono stati altri momenti in cui si è parlato nel modo specifico anche delle pubblicazioni che ci sono state quest'anno e anche, insomma, delle vicende, come dicevamo, giudiziarie. Il libro di Capocetti Boccia si sofferma ampiamente sulla vicenda del dossier Verbano, mai chiarita del tutto. Certo, insomma, oggi viviamo giorni in cui i personaggi, insomma, di cui Valerio tracciava i contorni e i legami che questi avevano con le bande nere, attraverso il traffico di armi, ad esempio, attraverso giochi loschi della politica italiana, ecco, oggi, insomma, per molti giovani sono addirittura passano al rango di eroi, anche grazie a fiction dai contenuti piuttosto discutibili. E questo è chiaramente un problema, forse uno dei motivi per cui è importante rivolgersi alle giovani generazioni quando si parla di figure, insomma, militanti del passato, perché proprio loro, insomma, possono raccogliere al meglio il testimone, l'eredità di quelle lotte, di queste figure di militanti. È importante, insomma, coinvolgere gli studenti, proprio perché è il miglior modo per cercare di arrivare a preservare la memoria delle lotte sociali e delle figure che l'hanno incarnata, questa lotta sociale, nel modo migliore, insomma. E certo, noi, infatti, come dicevo, è stato, come al solito, come ogni anno, è stato attualizzato. Vedere i manifesti insieme anno per anno, soprattutto per i più giovani, è fare una camminata nel, nel percorso della memoria, guardare come sono cambiati anche lessicamente i manifesti, quello che si voleva dire. Insomma, è una mostra molto interessante. E poi noi volevamo questa mostra comunque alla fine metterla a disposizione di tutti quelli, di tutti i compagni, di tutti gli studenti, farla girare per le scuole. Infatti pensavamo che alla fine dei giri che volevamo fare con questa mostra, metterla a disposizione sui siti di movimento per farla scaricare e renderla pubblica. Allora riprendiamo la linea in diretta dagli 87-900, parlavamo dell'iniziativa di domani dedicata a Valerio Verbano e dicevamo anche del fatto che in queste iniziative in cui si parla delle lotte di ieri e di quelle di oggi è importante riuscire a coinvolgere le giovani generazioni, anche perché sono quelle, diciamo, che più di altre riescono di tanto in tanto a innescare spazi e momenti di conflittualità più forte. Lo abbiamo visto, insomma, con i fatti di dicembre del movimento studentesco. E dunque noi siamo al telefono con Alessandro del collettivo Senza Tregua. Ciao Ale. Ciao. Ciao, insomma, molto brevemente e sinteticamente volevamo chiederti proprio dell'importanza, insomma, della partecipazione degli studenti a questa iniziativa, del fatto che giustamente ne sono coinvolti in prima persona, perché forse spetta a loro più di chiunque altro preservare la memoria di queste figure di militanti, no? Eh beh, sì, perché alla fine Valerio era uno studente, insomma, quindi aveva la nostra età, andava a scuola. E appunto si lega molto con quella che è la battaglia, con tutte, insomma, le differenze che ci sono in questo periodo storico, però la battaglia che noi facciamo ogni giorno per tenere i fascisti fuori dalle scuole è una cosa, insomma, che è sotto gli occhi di tutti e su cui tra l'altro devo dire siamo riusciti anche a ottenere come studenti ottimi risultati. Fino a che anno fa, insomma, l'avanzata delle forze neofasciste nelle scuole sembrava cosa inarrestabile. In realtà abbiamo visto che con un lavoro diverso che abbiamo fatto in questi anni, insomma, si può fermare, si può spiegare ai ragazzi che cosa vuol dire essere antifascisti oggi. Poi soprattutto noi abbiamo scelto, insieme ai compagni della SNIA e di Resistenza Universitaria, un taglio particolare a questa iniziativa, che è legare proprio quello che è il ricordo di Valerio con quello che sta accadendo in questi giorni, in particolar modo con il 14 dicembre, con una presa di coscienza che c'è stata da parte degli studenti proprio di una necessità di una lotta contro questo sistema. Erano gli ideali in cui credeva Valerio, in cui credevano tantissimi compagni, in cui ancora oggi, insomma, noi crediamo, e appunto vogliamo portare un testimone che unisca la memoria, l'antifascismo, il ricordo di Valerio con quelle che sono le nostre lotte quotidiane nelle scuole e nei quartieri. Tra l'altro, Alessandro, è anche importante dire che le scuole solitamente sono proprio uno dei terreni ideali all'interno dei quali si combatte la cosiddetta guerra della memoria, terreno ideale spesso anche per le sortite istituzionali, vere e proprie invasioni di campo da un certo punto di vista di politici, soprattutto quelli, insomma, con rilevanza locale. Abbiamo spesso visto in passato, ad esempio, i sindaci in persona recarsi nelle scuole un po' proprio a, diciamo, in circostanze come queste, cioè vicino gli anniversari di questo o quel, diciamo così, insomma, morto degli anni 70, in qualche modo per strumentalizzare questi avvenimenti e darci a bere la solfa dell'equiparazione, no? Tutti tanto alla fine diventano vittime del terrorismo e della violenza degli anni 70. È importante che sia proprio dalle scuole invece che parta una risposta a questo tipo di offensiva, no? Ah sì, questo certamente. Infatti noi stiamo cercando di lavorare, tra l'altro, per quanto riguarda il ricordo di Valerio proprio sulle scuole di Montesatro, perché questo, insomma, avrebbe anche un significato molto particolare da questo punto di vista. Quello che dici tu è giustissimo, noi lo viviamo quotidianamente, esponenti politici che vanno nelle scuole, addirittura c'è stato un caso, insomma, noi abbiamo contestato l'anno scorso, ma ci sono, insomma, ogni giorno cose del genere, di Fini che è andato a parlare della Costituzione, insomma, che è una cosa che probabilmente non credo gli apparegga molto. Il punto è che noi ci troviamo in una fase in cui l'idea dell'antifascismo e della memoria, insomma, viene un po' sempre annacquata in tutto questo contesto, cioè si fanno passare messaggi anche sbagliati molto spesso, che allontanano paradossalmente gli studenti, in una fase che è molto difficile perché il sentimento dell'antipolitica rischia di legarsi in qualche modo con tutto questo. Noi abbiamo sempre pensato una cosa, che l'antifascismo si porta avanti fianco a fianco con le lotte ogni giorno, cioè per dimostrare agli studenti che cosa vuol dire essere antifascisti, vuol dire fare nella scuola inchieste sul caro libri, dimostrare il perché praticamente la scuola è una scuola sempre più di classe, che esclude, fare noi per primi le battaglie sull'edilizia spazio, insomma tutto quello che troppo spesso una certa sinistra in questi anni non ha fatto più e ha lasciato che qualcuno si infilasse al suo posto a fare quello che avrebbe dovuto fare, ovviamente poi strumentalizzando e portando su tutto un altro versante questa cosa. Quindi il modo migliore, insomma, per essere antifascisti oggi, dalle scuole in ogni situazione, è quello di essere avanguardia nelle lotte ed essere i primi a denunciare tutte le nefandezze di questo sistema. Benissimo, allora Alessandro, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ci si vede domani all'ex SNIA. Grazie a voi. Ciao. Ciao.